fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, continua questo lungo sabato di Inner & Dance, 16 giugno del 2018, sono le 2:32 del mattino, quindi un'oretta alla chiusura, ma continuano ad avvicendarsi gli ospiti, i festeggiati, o meglio le festeggiate in questo caso, di questo lungo sabato notte al convento di Lonato, e ospitiamo ai nostri microfoni qui una altra protagonista di questa serata che si chiama... Chiara. Chiara, benvenuta. Allora, Chiara, da dove vieni? Da Treviso. Treviso, che non è proprio no, dietro provincia. L'angolo, No. Ma no. Di là, esatto, al di là è un paese impronunciabile, che non stiamo qui, se no esatto. Passiamo l'ultima ora della nostra serata a pronunciarlo, invece di farle ballare. Esatto. Quindi, per semplicità, diremo Treviso, ma che comunque non è vicino no, rispetto esatto. A... Quanto c'è? Un'ora e mezza. Un'ora e mezza, quasi due. E cosa vi ha portate qui? Beh, non lo chiedo a te perché immagino esatto. Che la decisione arrivi da un altro lato della stanza. E sapevamo che qua c'era tanta festa. E... Sul tanta f mi sono allarmato un attimo. Poi mi sono ricordato che c'hai i capelli biondi, io ho detto ok, festa. Perché di solito finisce in un altro modo, ma con un altro tipo di esseri umani. E soprattutto un altro genere sessuale. E bene, quindi tanta festa, sono felice che l'abbiate, spero, trovata e vi siate divertite. Ma soprattutto, ecco, perché di questa festa, dicelo tu, Chiara. Il mio Dio nubilato. Il tuo Dio nubilato, molto bene. Quando ti sposerai? Tra 2 settimane, il 30 giugno. Tra 2 settimane ho visto allora, intanto cambiare 5-6 colori nel momento in cui lo dicevi e poi passare dall'entusiasmo alla consapevolezza, alla paura, al terrore in 4 secondi. No, vabbè, terrore no, però un po' di ansia. Però è anche interessante parlarne, ecco, che tipo di sensazione provi a una quindicina di giorni dal grande giorno? Cioè, qual è la sensazione maggiore? Felicità c'è sempre, però un po' di ansia. Anche perché, mi perdonerai, ma è un bicchiere di vino con un panino, quindi esatto, non quindi può mancare, non può mancare, non può mancare. Però un po' di ansia, un po' di nervosismo c'è, perché comunque speri che quel giorno vada tutto bene. Certo. Il clima, certo. Che non piova. Che ti sei beccata la stagione, l'anno migliore, esatto, l'anno migliore, perché vedo. Può cambiare in un'ora. Esatto, e poi... Beh, tu fornisci, cioè nel senso, stai un po' restia sull'aperitivo e investi sulle mantelline. Cioè nel senso, dai un po' meno aperitivo, però ti prepari un kit di mantelline per tutte le occasioni e via. Sì, devo investire così, è un beh, consiglio. Dipende. No, è un consiglio, vedendo come vanno le cose negli ultimi giorni, io a parte gli scherzi. Io sulla festa, insomma. Sì, esatto. Free drink, sì. Open bar. Poi ogni tanto quando parli con la gente butta lì un festa bagnata, esatto, festa fortunata, sono quelle cose che fanno sempre festa, esatto. Che fanno sempre festa. E no, quindi mi fa piacere che, insomma, dire, si combinino, ecco, tante sensazioni insieme, ma la paura è dettata più da un fatto organizzativo, cioè proprio meramente del dire, come dicevi tu, va tutto bene, questo qui, questo là, o anche comunque da un fatto più metaforico, chiamalo così, di un grande cambiamento di vita, cioè cosa c'hai dentro? No, più che altro... Nella lavatrice, cosa stai lavando? No, c'è una questione organizzativa, perché io sono convinta di quello che sto facendo, perché comunque viviamo insieme, quindi sono convinta di quello... Ah beh, ok, non è un grandissimo passo, nel senso, ok. Esatto, okay. So quello con cui vado incontro, andrò incontro, però è solo una questione organizzativa, visto che le mie amiche ben sanno che non sono proprio così, insomma, propensa a organizzare le cose. No, non ti piace. No, infatti questa che è riuscita bene non l'hai organizzata. Esatto. Ah, beh, bene. Ma solitamente le dei nubilati non si organizzano. Esatto. Cioè, sarebbe un problema, esatto, se succedesse che la sposa se lo organizza. E vabbè, però potresti sorprenderle magari, è arrivato il momento di vendicarsi un po' di questa anomia che ti porti dietro. Esatto, quindi spero che sia la volta buona. Dai. Vedrai che le sorprenderai, ne sono certo. E quanto tempo fa sei partita con tutto questo? È un anno e mezzo fa. Sai che è più o meno la media? Ogni tanto lo chiediamo a quelle, più o meno è un anno e mezzo, sì, un anno abbondante, un anno e mezzo, quindi confermi anche tu che comunque l'iter è sempre quello, ce ne vuole. Già per il ristorante, già ci sono persone che già due anni prima si mettono nella ricerca del ristorante, quindi bisogna un po'... Anche perché poi approfitti della prova del menù, della conferma della prova del menù per... sbaffare due o tre cose lì, esatto, che te le offrono e te le regalano. Bene, bene, quindi sì, sei nella media. Sono brava. Sei nella media, sei nella media. L'altra cosa di cui volevo raccontare velocemente è anche quello che fai nella vita di tutti i giorni, nella vita normale, che è, vabbè, no, è bello, è molto interessante, è molto, molto carino, se ti va a dircelo chiaramente. Sì, sì, vabbè, lavoro in una casa di riposo, sono una operatrice sociosanitaria. Sociosanitaria, quindi, sì, ma cosa, sempre su turni comunque, sì, le 8 ore? Sì, turni, 8 ore, quindi mattina, pomeriggio, notte. Anche la notte? Anche la notte. Porca. Sì. La notte è pesante. Abbastanza. Cioè, immagino sia molto presidio, però quando c'è qualcosa che non va, non va. Sì, esatto, però la notte sta abbastanza tranquilla, per fortuna. Mm. Però comunque prendere ritmo, cioè, non è semplice. Ok. Comunque è difficile. Avete già figli per caso? No, no, non no, ancora. No. No, perché volevo chiederti magari la differenza tra. Per adesso no, quindi, però anche lui lavora a turni, quindi insomma ci capiamo, non ci incontriamo praticamente. No, dicevo, la differenza magari tra, come dire, accudire, passami il termine, un bambino e accudire un anziano in casa di riposo, perché tanti dicono che appunto la cura e l'amore che ci si debba mettere è simile, sì, a quello che sì, ci si mette per un figlio. Quella sì, però insomma diciamo che il bambino comunque hai, insomma, sai che può migliorare. Purtroppo l'anziano, certo, non è che potrebbe, sì, beh, diciamo che è più un discorso di compagnia, esatto, o comunque di allietare, alleviare, esatto, quella che può essere la giornata più o meno sempre ripetitiva, perché quello è alla, sì, fine, quello è. E quanto va forte nel tuo lavoro la melacotta e lo stracchino? È tantissimo. Hai visto? All'ordine del giorno. Hai visto? Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Fantastico. Sì, sì. E oggi stracchino! E grande entusiasmo, esatto, e grande entusiasmo nella folla. A ruba proprio, cioè, a ruba. Sì, sì. No, non si stancano mai. No, no, anzi. Non si stancano. È richiesto moltissimo. Bene, bene, bene. Vedi che noi pensiamo che le cose banali o i dettagli alla fine comunque fanno la differenza, per loro fa la differenza. Allora, dai, parliamo ancora un po' della tua festa, anche perché non l'hai organizzata, ma comunque sei circondata, immagino, da tante persone che ti vogliono bene. Chi c'è qui con te? Allora, le mie due testimoni di nozze. Che sottolineiamo essere, com'era? Comari? No. Comari. Le comari, lo sottolineiamo. Poi come si chiamano? Arianna e Alice. Arianna e Alice, entrambe con l'A, e molto poi bene. Ci sono altre quattro mie amiche, Elisabeth, Monica, Cristina e Federica. Chi è Federica? Fondo, sta, fatti delle domande, perché si stava, no, addirittura dimenticando del, no, tuo nome e della, no, presenza. Solo perché la chiamiamo con soprannome. Ah, ok, ok, va bene, va bene. Si sta arrampicando sugli specchi. No, sento, non è vero, lo sento so stridore benissimo. Di. No, no, chiaramente, si scherza. E quindi tutte amiche, dicevi? C'è qualche collega, qualche. No, sono amiche. Ok, le due testimoni, come mai, se posso chiederti? Nel senso, come mai hai scelto loro? Beh, lei praticamente ci conosciamo dall'asilo. Ok. E anche lei praticamente siamo dello stesso paese, siamo cresciuti insieme. Beh, quindi, ah, ok. Quindi, insomma, ha trascorso la vita insieme, esatto, è giusto che ti accompagnassero. Esatto, t'accompagnassero, esatto, anche. Beh, quindi loro le conosci da un po' dopo? Sì, esatto. Sì, beh, nella vita, insomma, ci siamo conosciute. Vabbè, insomma, comunque fanno parte, sì, importante, esatto, ecco, sicuramente della festa, insomma, della festa, esatto, e della tua vita sicuramente. Voi volete dire qualcosa alla vostra Chiara? Vai Chiara! Vai Chiara, è giusto che è una, insomma, sono discorsi importanti che immagino abbia scritto per ore e ore negli ultimi giorni per trovare queste parole così, così importanti, e pronta per ricevere un Nobel, da quanto vedo. Ci sei. Sei lì pronta per avere il tuo discorso, no? Grazie. L'hai già ricevuto? Per cosa? Per cosa? Dici un po'. Per la modestia. Come? Ah, Nobel per l'exploit, beh, una nuova categoria che hanno coniato. Bene, bene. Ultimamente, credo. Ultimamente, sì. Ma ci fa piacere, ci fa piacere. Ok, volete salutare qualcuno? Volete approfittarne? Beh, io saluto il mio futuro marito che starà dormendo quest'ora, povero. Che è quello che pensi tu? Spero, me lo auguro, insomma. E basta, si chiama Cosimo comunque. No, è vero, ciao. Non ce l'avevi ancora, sì, detto? Esatto, e ciao. Ciao, anche tu, in quanto a messaggi importanti, diciamo che ti sei fatta influenzare dalla tua testimone, esatto, come è giusto che sia. Insomma, c'è del contenuto, c'è del, esatto, contenuto. Diciamo che Twitter con voi va alla grande, perché voi nei 160 caratteri ci sguazzate a meraviglia. Voi volete. È giusto, concisi, sintetici, andare chiare e diretti, esatto, al punto. Brava, brava. Sono della tua opinione, assolutamente. E voi, amiche, colleghe, non testimoni e non, volete dire qualcosa? Siamo contenti e siamo giusto? Contenti di partecipare. partecipare a questo suo giusto? Contesto. Bene, bene, vedi. Ci sta, ci sta. E non erano, cioè, non erano pagate, nel senso. No, no. Non, sono sta, non è un pubblico pagante, sono tutti, tutte sincere, tutte sincere. Sì, spero proprio di sì. Ma sì, ora si vede, lei è addirittura venuta in rosso. Esatto, da grandi occasioni. Da grandi occasioni, perché ha capito l'importanza della serata e quindi si è anche esteticamente e cromaticamente adattata alla, all'importanza di questa serata. Molto bene, allora vi ringrazio per essere state con noi in questi minuti e vi auguro una buona fine serata e un buon divertimento e soprattutto auguri alla nostra Chiara. Grazie. Per il suo futuro matrimonio. Grazie. Giusto, giusto. E guarda, io mi fido delle tue capacità e sono certo che andrà tutto bene. Bene. Vedrai, vedrai, tu devi crederci, credici. Bene. Devi esserne convinta. Buona serata. Ciao. Ciao.